di tuo, la mia sta qui si intreccia al diletto. Oh, che vi turbò, sto meglio. Fa in conta guisa ucciderete, ma verve l'uopo cura dell'esser vostro. E non potrei. O se mia foste custode veglierei per vostri soavidi. Che dite? Apposti al cielo una di me. Perché nessuno il mondo amava. Nessuno. Tranne sol io. Ma io ero sì grande amor dimenticato mio. Di me e voi un cuore. Un cuore sì forse e a lei lo richiedete. Ma se ciò fosse non potreste allora celiar. Dite davvero? Io non vi inganno. Da molto è che mi amate. Ah sì, da un anno. Un dì felice e Non ho altro che te. Oh, joy, I can't be. Oh, Quasi in cielo. di che disse vivere io voglio a te fedel. Ah sì, nell'universo in me. Quasi in ciò io vivo in ciò, ma l'universo in me more. Io vivo quasi in ciò, ah sì, io vivo quasi in ciò, io vivo quasi. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Era di mar cavalli pochi e quanto ancor possiede. Che mai sento? Lo spendio grande a viver qui solinchi. E tacevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Orma bisogna? Di Parigi. Orvanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora, il tutto valgo a riparare ancora. Ah, ah. Manfredo per Parigi or partiva, e tornerà pria che tramonti il giorno, dir bel m'impose che strano. Sacrificio chiego a lotta cede terribile cosa. senza chiedere se certo i previdi battesi ero felice troppo. D'Alfredo il padre la sorte l'avvenir domandar qui de suoi due figli. I due figli? Sì. Pura siccome un angelo Iddio mi die una figlia, se Alfredo nega riedere in seno alla famiglia, l'amato e amante giovine, cui sposo andar dove Ramba sabo, y yo soy. via parti. Poi che dal cielo furono ai nodi benedetti. È vero. Parunque dunque scordasi dal sogno se te pensateci, ne siete in tempo ancora, e io che ispira giovine, e Dio che ispira giovine, e Dio che ispira ai detti angeli. Supra. non amarlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allor. Qual figlia, qual figlia m'abbracciare, forte così sarò, tra prima di me ti ha reso, afflito il tre ogni dire, a sua concordante la volrete. E pensate, sapendo il non vorreste almen sier mio generosa, e per voi che parto sia, e far possio, o Oh, grato bel cor mio, Armino. Scritto mi lasciava, però l'attendo, camera invaderti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu la calma, ai miei vestiti leggerò, di visi più non ne vorrà. Sarem felici, perché tu m'ami, Alfredo, tu m'ami, non è vero. Alfredo, Alfredo, non è vero! Aguanta! Di lagrime a me a tuo, son tranquilla, lo vedi, ti sorrido, lo vedi, son tranquilla, ti sorrido. 听众朋友，刚才您欣赏到的是由阿基列斯、贝里托纳、莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔蒂的歌剧《茶花女》上半部分录音。稍后请您继续收听。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。 接下来的时间中，请继续欣赏由安吉列斯·贝里托纳·莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》下半部分录音。 Alla festa! Oh!

che infano va mi lascia sul verdore facer il giuramento sagrio feci a chi? Dillo tutti povea a chi dritto pienna vea tutto fai sì dunque ami ben l'amo or tutti a me questa donna conoscete che facesse non sapete Adagio ogni sua ver tal femmina per amor mio perdea io cieco vile misera tutta accettar patea ma tempo ancora tergermi davanti a vecchia bravo guida stima Testimon vi chiamo, or testimon vi chiamo, che qui, e qui pago l'alma più non ragiono da lei perdono più non avrò volle a fuggirla non ho potuto dall'ira spinto son qui venuto orché lo sdegno ho disfogato m'è sciagurato rimorso Rosmaro Yeah.

si affanni, compenso avrai la tua salute rifiorirà. Adesso, attendi! No! faccia che bevo, ma per il dottore. No, digli che Alfredo è ritornato all'amor mio, digli che vive, vive, ancora voglio. Più a me t'apprezzo Quella mi trasse via, quella mi trasse.